fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo qua al Ristorante Convento in compagnia delle amiche che vengono da... Ravenna! Adesso ti do la cuffietta anche a te, così almeno è più bello, giusto? È più bello così? Sì, è bello, eh? Con la cuffietta. Atmosfera. C'è molta atmosfera, così? Sì. Ah, ok. Ma voi non siete tutte le tre, come vi siete definite prima quando abbiamo cantato? Le trentenni. Ah, trentenni, ecco, io pensavo un altro nome che vi siete date, che non è trentenni, giusto? Manca la terza, però abbiamo la filosofica, no? Come? Sì. Ah, tu sei la filosofica e ti chiami? Chiara. L'intellettuale Detta Chiara. L'intellettuale, bravo. Detta Apollo? Perché combina guai? Davvero? Me la cantate la canzoncina, ve la ricordate? Pollo combina guai. Su un elolimo felice tu stai. La beniamina di tutti gli dei sei tu. Fantastica, bellissimo, no? Un momento toccante di radio proprio. Pensate a quelli che stanno guidando la macchina adesso e quasi hanno sbandato a sentirvi cantare. No, dai, siete intonate. Poi abbiamo la... Tecla. Semplicemente Tecla? No, lei non combina guai, no? No. Solo Tecla. Ecco, esatto, giustamente. Sottolineiamo questa cosa che... Sì, se uno guida poi deve sapere che è l'effettore. Adesso questo ha sbandato per davvero. Cioè prima c'era andato vicino, questo ha sbandato e ha detto... Cavoli, non posso vederle, le sento e basta. Riesci a farci sentire le tettone in radio? Non c'è verso, vero? No, ecco, quindi venite qua al convento per vedere le tettone della Tecla. Non è il socio della Santa. Chiara è diventata socio azionaria del convento da stasera. E quindi ci promuove questa pubblicità ingannevole dove praticamente se vieni cosa succede? Vedi le tette della Tecla. Ah, proprio così? Cioè, tanto senza il parere di Tecla, abbiamo deciso noi. Tecla è generosa. La Tecla è generosa, tra l'altro. È singola anche Tecla? No. Forse. Forse da stasera, esatto. Domani mattina. Se casualmente il fidanzato si è sintonizzato su Ristorante del Convento. Marito. Ah, marito pure? Ecco, si è sintonizzato su... No, non ascolta Ristorante del Convento? No. Può essere. Dici la sfortuna, ci vede in maniera clamorosa. Poi Chiara, ti vedo lanciata, Presentami la festeggiata a questo punto. Allora, la festeggiata si chiama Elisa e oggi è il suo compleanno e noi lo festeggiamo. Auguri Elisa! Tra l'altro non sta leggendo Chiara, è proprio una sua... Lei è Pollon proprio, lei è Pollon. Tra l'altro abbiamo lo spogliarellista fuori che è per l'occasione, ecco. Sì, dal gemello diverso. Ecco, sì. bravo, sì. Ecco, vedo Chiara distratta, proprio... funziona così, sembra di essere in un acquario qua dentro. Bellissimo. Con dei pesciolini che si attaccano al vetro. C'era anche una vostra amica, tra l'altro, la pesce pulitrice, no? Sì. Come si chiama? Roby, la pesce pulitrice, che è quella che con la lingua si era appiccicata al vetro, tra l'altro pochi germi, No, niente. Poi abbiamo, cos'è che abbiamo? Me lo dice il microfono? Odio tutti, certo. Odio tutti, che di nome fa? Elena, tra l'altro la sua caratteristica è quella... Di odiare tutti, a prescindere. Piace questo... E c'è Dori. Dori? Che... Sì, c'è Dori, perché dimentica sempre tutto, ed è la nostra Dori. Ah. Per arrivare al commento ci ha messo 8 ore. Perfetto, è partita stamattina allora, sì, in pratica. Girava dalla sponda. Era lei che guidava? Sì, la persona, una sicurezza la Dori, ecco. Fantastico, il navigatore non esiste, no? No, non siamo moderni. No, non lo capisce il navigatore. Dori non capisce il navigatore? No, ne avevamo 4 in macchina. Di navigatori o di Dori? Quello della macchina e i 3 cellulari, però ci siamo persi lo stesso. Però mi sembra una persona affidabile, Dori. Domani dobbiamo anche tornare a casa. È questa? No, è quella dietro. Quella è il pesce pulitore. Ah, il pesce pulitore. Infatti ho visto che ha fatto la bocca ventosa e si è appiccicata al vetro. Fantastico, però avete tutte amiche pesci, no? Cioè avete pesce Dori, pesce pulitore. No, io sono acquario. Ah, scusami, è vero. Ah, grandissimo, ragazzi. Facciamo un applauso in diretta perché veramente... La Chiara la vedevo proprio... È molto sul pezzo. Secondo me abbiamo trovato una nuova conduttrice radiofonica perché sì. La vedo veramente a suo agio. Tra l'altro si è messa anche le pantofole, già proprio che... che storia. Ma raccontatemi un po' la vostra storia. Siete partite da Ravenna per festeggiare questo compleanno? Sì. Non a sorpresa? Sembra, ma siamo tutte mamme. Veramente? Sì. Siamo anche vecchie. Scusa, trentenni, tutte trentenni. Giovani, l'abbiamo fatto giovane. Siamo trentenni una volta. I 30 li abbiamo compiuti tutte. Ecco. E su quello. Però non si sa quanto tempo fa le vedete. Non è dato sapere. Non è dato sapere, però i 30 ci siamo, quindi siete. più che maggiorenni. Siamo MILF. Ah, siete MILF? MILF. Sono in radio con le MILF. È pericoloso stare con le MILF. Sì. Ah, tre contro uno. Perfetto, io ero abituato anche a 5 contro 1, ma è una vecchia tecnica che sì, non l'hai capita questa. No. Ci spiegate dopo la tecnica. Grazie. Ecco. Va bene. Allora, torniamo a noi. Siete partite stamattina da Ravenna? Così con la speranza di arrivare in un'oretta, due massimo. Sì, siamo arrivate in 8 ore con Dorio, ma siamo arrivate, sì. Poi è bello, però ci siete, quindi è importante questo. È vero, siete arrivati in ritardo, non vi ho visto all'inizio. No, eravamo in sotto. Ah, eravate sul primo piano, ok. Poi avete fatto la vostra cena, la vostra festa. Sì. Abbiamo uno dei gemelli che era esatto, l'altro era, l'altro ecco, gemello, diciamo che un gemello che un cliente era abbastanza rapato perché casualmente cioè distrattamente si era leggermente alzato la gonna, ma proprio di un centimetro più. È un attimo quelli lì sono super allertati questi esatto. Così le trentenni fanno questo effetto, le mid trentenni fanno questo effetto. Ok, poi come prosegue la vostra, il vostro programma? Si può sapere o è tutto... Non si sa? No. Basta, fine. Ah, ok. Siete qua, basta, bello. Ok. Ti ha fatto dei bei regali? Cos'è questo? Sì? No, sono venuti con me, questo è un regalo. Ah, è vero, l'abbiamo detto anche di là. È vero. Non l'ho fatta. Prendite. E domani andiamo a tirarmi le vecchie. No, che bello. Bello. È bello, no? Ah, relax. Bello, ci sta. Sei contenta, Chiara? Tantissimo. Contentissima. Poi si torna al lavoro, bambini. Ma la Chiara sembra una tranquilla, però la faccio da birba. Ancora? È vero? L'ha giocata? Sì. Guarda. Tutta contenta. Ah, tremende. Ascolta, Chiara, dai, siamo un pregio e un difetto della nostra Elisa. Allora, un pregio è che è super attiva. Sì. E un difetto è che è super attiva. Perfetto, mi piace. Lo chiedo a te, che secondo me dici un pregio e un difetto? Di Elisa? Sì. Super attiva. È la stessa cosa. Okay. Sì. Elisa, un pregio e un difetto di te stessa? Non si conosce bene, essendo appena trentenne sta ancora scoprendo se stessa, esatto. Giusto? Quindi non hai pregi? No, sì, sono super attiva. Sì, e che sei super attiva anche di me. Incredibile, mi piace che lei parla nell'aria, le ho detto parla di qui, parla di là. Invece è quella cosa lunga lì, che ecco, quello lì. Non prendo nero. Confidenza, no. Ok, si chiama microfono. Fantastico, allora vi è piaciuto il convento, contente? Sì, molto. Felici? Felici, siete felici, contente? E convente? Molto. Sì. Non nessuna di voi era mai stata qua? Io sì. Elisa sì. Per un umilato, perché cioè, il mio pregio, ecco, vedi, mi piacciono le feste, mi piace fare festa, mi piace divertirmi. Sì. Sono un'eterna Peter Pan. Bellissimo, non è? Questo è un pregio fantastico. Ecco. Qualcuno potrebbe... Sono vecchia, però dentro ho 12 anni. Vero, Chiara, confermi? La media è 30. È vero, è perché è giusto, perché in realtà sarebbero, io non ho ancora chiesto l'età giusta, non si dice 40. Tanto siamo in radio, quindi certe notti o sempre certe notti, sì. Vedi, potevamo cantare Ligabue. È vero, famiglia Ligabue. Ah, dopo la cantiamo, che dopo torniamo di là, andiamo da Stefano. Ok ragazzi, il nostro programma era 5 minuti per raccontare e raccontarsi, ne abbiamo fatti già 8 e abbiamo sforato. È Chiara, che è colpa mia, è colpa di Chiara che si è presa bene, la teniamo qua, che fai questa donna che sale così. E le amiche ci sono ancora? Sì. Infatti sono tutti di dietro, casualmente lo stanno buffando dietro. Il gemello, i gemelli sono tutti dietro. Dai, salutiamo anche quelli a casa, tipo i mariti o no? No, tu Chiara? No. No, salutiamo tutti quelli che sono alla guida e che ci stanno ascoltando. Spiegatemi una cosa. Professionalità. No, ditemi, ma la Chiara lavora in radio, fa qualcosa? No, la Chiara è ingegnere. Si vede che parla da ingegnere proprio. Ma tra l'altro poi è impostata, cioè non si muove così, no? Perché è fantastica. Non si può far vedere alla radio, però è tutta composta, limpida, così. Sembra tipo anche quelle delle previsioni del tempo, una conduttrice del telegiornale, qualcosa. Ma sarà il meteo domani? E domani il sole splenderà qua nel Veneto. Siamo nel Veneto e in Lombardia. Tra il Veneto e la Lombardia. Infatti, tra il Veneto e la Lombardia. Quindi, splenderà il sole. Perché? Perché ci siete qua voi, giusto? Ovvio. E lo abbiamo portato dalla Romagna. Grazie. Un bel regalo, no? Quello che ci porta Tecla dalla Romagna. Noi oltre alle tette. Di solito porto sempre tutto. Non lascio mai a casa tua. Grandissimo. Simpaticissima. Allora, non salutiamo nessuno, abbiamo detto? No, e facciamo gli auguri a Elisa. Tanti auguri! Auguri Elisa! Va bene, da Chiara, Tecla ed Eli. Sa. Sa. E, ok, e sa, sa, sa, sa Sandrino. Ok. Ciao ragazze. Ciao, ciao. Ciao.